Buonasera! Buonasera e benvenuti alla terza serata di Comici in Stato di Grazia. Vi starete chiedendo perché questa serata si chiama così? Ovviamente perché tutti i 10 comici che si esibiranno stasera sono pazzeschi. E poi perché io mi chiamo Grazia. Diciamo, il nome non l'ho scelto io di questa serata, ma non mi sono nemmeno opposta, dopo tutto. Io sono Grazia Sambruna e sono qui grazie a Dario Tedeschi, che si è inventato questa rassegna di stand-up, a cui va un fortissimo applauso. Siamo al terzo appuntamento con Comici in Stato di Grazia. Io sono molto felice, voi anche, vero? Sì, assolutamente, siamo d'accordo. Oh, non importa, che è sempre una garanzia. Sì. Comunque l'altra volta hai rotto il palco, stiamo ancora aspettando i 200 euro. No, cose nostre, scusate. Benissimo, allora, siamo qui per passare una serata in cui rideremo tantissimo. Allora, oggi è domenica, gioca il Milan contro il Torino, non so se lo sapevate. Ancora convinti di stare qui? Ma che brave. Allora, sì, cercheremo di farvi ridere il più possibile, ma anche di estorcervi del denaro, che è una cosa che ci piace fare così, brutalmente. No, scherzo. Allora, questa serata è assolutamente gratuita, ma sulle vostre sedie avete trovato probabilmente delle buste e Maria De Filippi non ha nessun invito per voi, ok? No? La risposta a questa battuta è stata no. Ma io continuerò a farla, ok? Perché sono un eroe. Benissimo. No, praticamente queste buste si chiamano biglietto responsabile. Il nome è insidioso perché è evidente che siano delle buste. Allora perché si chiamano biglietto? Perché potreste, al termine della serata, infilarci dentro qualche soldino che andrà ai comici che si esibiranno stasera, ma verrà anche devoluto in beneficenza a un orfanotrofio in Tibet, che si chiama, perché io faccio i compiti bene, Tashi Orphan School. Quindi, se siete delle brave persone, fatelo, altrimenti siete delle persone orribili. Ok, benissimo. Ora che ho praticamente rotto il ghiaccio, sto già sul cazzo a tutti, no, c'è un'altra cosa. In fondo c'è un bellissimo mercatino pieno di DVD, libri, qualsiasi cosa, quindi se volete comprare qualcosa, probabilmente ci sono anche dei prezzi in lire, ecco, quindi se avete anche, se vi è rimasto del vecchio conio nelle tasche, potete, e potete appunto comprare qualcosina, dare un'occhiata, oppure non comprare niente e andarvene via, poi non rientrerete qui mai più, ok? Perfetto, allora, ora che ci siamo spiegati, direi che possiamo iniziare questa scoppiettante serata con il primo comico in stato di grazia. Gli ho chiesto come voleva essere presentato perché non avevo voglia di inventarmi una presentazione per lui. E la sua presentazione, non per, ma per tutti, non è solamente lui, è una cosa mia. Allora, lui si descrive come affascinante, con la barbetta e i baffi da stupratore. Un grandissimo applauso per Nick Porta! Grazie. Buonasera. Ciao Milano, siete tantissimi. Cioè, non siete tantissimi dall'esterno, ma dentro di voi so che siete molto numerosi. E questa cosa mi fa un sacco piacere. Come andiamo? Allora, io ho iniziato a fare stand-up quasi un anno fa, il 12 dicembre scorso, quindi fra qualche giorno faccio esattamente un anno di stand-up. Sì, un applauso. Wow. Ve lo devo dire io di farmi un applauso. Che cazzo? Ma dai... E niente, ho imparato un sacco facendo quest'anno di stand-up, è stata una cosa importantissima per me. Ho scoperto, la cosa più importante, più centrale che ho imparato, è che se non tengo il microfono vicino alla bocca non mi si sente, che è una cosa che poi mi ha cambiato la visione, guarda, senti, mi avevo cambiato la visione delle cose, quindi è una cosa che mi porterà nella tomba. E parlando di tomba, io settimana scorsa, qualche giorno fa, sono andato a giocare a calcetto con i miei colleghi, colleghi dell'ufficio, età media 35 anni, e ho visto come hanno giocato loro, ho visto come ho giocato io, ho fatto due calcoli e sono giunto alla conclusione che io ho circa 67 anni, che è una cosa che non sapevo di me stesso, è stato tragico, cioè ho corso, in certi momenti non riuscivo a respirare, non riuscivo quasi a vedere, proprio a mettere a fuoco con gli occhi, a un certo punto mi sono girato, ho visto la Madonna, che mi guardava e mi indicava e rideva. Ora, quando una donna palestinese deride la tua aspettativa di vita, capito, non è un ottimo segno sul tuo futuro. Quindi questa è stata... Oh, dalla piccionaia, un po' di silenzio. Scusate, no. Tanto per queste cose che poi mi dimentico quello di cui sto parlando. E allora, soltanto l'unica cosa dopo essere uscito da questa partita è che mi sono sentito dentro il bisogno di ricominciare a fare attività fisica, fare un po' di movimento, che è una cosa che va contro tutti i miei principi e mi ha proprio fatto in realtà male nel profondo, perché è una cosa che mi dice la coscienza. Io con la mia coscienza ho questo rapporto. La mia coscienza è una voce che sale dagli inferi probabilmente e che mi dice spessissimo cose come: tu morirai prestissimo, nessuno ti ama, Dio non esiste, butta lì, Dio ti esiste, Dio ti odia, se esiste. E quindi il problema è che è una cosa che tu magari quando inizi a sentirla questa cosa, no, durante l'adolescenza, ti dà un po', come dire, ti mette un po' di ansia, di paura, però col tempo è una cosa con cui inizi ad avere un ottimo rapporto invece, perché cioè tu magari una sera, metti caso, esci, vai a una festa, ti imbriaghi male, fai una figura di merda, ovviamente, ti svegli il giorno dopo nel tuo letto, ovviamente da solo, ovviamente con un vago ricordo della cosa che hai fatto la sera prima, ti svegli con l'ansia, cazzo, poi ho detto tizio quella cosa lì, tizio secondo me, minchia, mi prenderà per il culo per settimane, che figura di merda. E poi senti dietro di te la vocina che fa, ciao caro, ti sei svegliato, come stai, cosa stavi dicendo? Devo fare la voce della mia coscienza che non è molto fa, come cosa stavi dicendo, come stai? Non so perché la mia coscienza è la voce di Gaspari, è una cosa che mi preoccupa leggermente. Non depone a mio favore. Come stai, caro? Cosa stavi dicendo? Niente, cazzo, ti ricordi ieri sera che ho detto a tizio quella poi figura di merda? Ma no, tu non ti devi preoccupare, te lo dico sempre, caro. Senti, tu per le altre persone sei solo un'ombra che appare brevemente nella loro coscienza, serve a divertirli leggermente, e poi scompari per sempre, e loro non sapranno mai chi sei, non importerai mai a loro chi sei tu veramente. Quindi non ti preoccupare, non hai fatto una vera figura di merda. Oh, grazie caro, tu sai sempre cosa dire per farmi stare meglio, grazie. Ah, non ti preoccupare, te l'ho già detto, vero che Dio non esiste? E me lo dici tutti i giorni, tesoro, grazie, tu sai sempre cosa, mi capisci così bene. E il problema è stato che dopo la partita a calcetto, invece, io sto uscendo dal campo, no? Sudato, mali da tutte le parti, così, e sento questa voce che mi fa: ma senti, tutto bene lì fuori? Come scusa? No, dico, ti ho visto un po' affannato, mi stavo un po' preoccupando di te. Aspetta, come preoccupato? Tu che sei sempre così ottimista nella vita. No, dico, mi sembra, cioè, mi sarebbe dispiaciuto se fossi caduto, se fossi preso un coccolone, una cosa... No, aspetta, fammi capire. Tu, da che ti conosco, continui a ripetere che il cosmo è questo ventre oscuro dal quale vieni lanciato fuori sul mondo e hai una vita breve, priva di morale, di significato, che serve soltanto a divertire il nulla da cui provieni, nel quale verrai lanciato nuovamente, e che il tuo ciclo di vita si concluderà in questa maniera atroce, e la prima volta che mi vedi sudato per 10 minuti ti preoccupi. Cioè, cosa... Senti, secondo me, guarda, dovresti iniziare a fare un po' di attività fisica, un po' di corsetta, no? Un po' di riscaldamento, magari perdi 2 chili, stai un po' meglio, ti concilia il sonno eterno? No, non il sonno eterno. Senti, dovresti pensare a qualcosa che ti motiva un pochino nel fare attività, qualcosa, cioè, perché pensa così? È brutto se, non so, metti, se muori senza esserti neanche laureato, capito? Qualcosa che poi studi sociologia, cioè non è che devi proprio fare, lo so, senti, ho già deluso i miei genitori, non me lo devi ripetere tutte le volte. Sì, però vecchio, tu studi sociologia veramente, per passione. Ok, senti, lo so che sociologia non serve un cazzo sul mondo del lavoro, però non serve a niente neanche gli inferi dopo che sarò morto. Inferi che tu mi ricordi non esistono. Oh, parlando di inferi, senti, quella che avevi visto prima era la Madonna, giusto? Ma è una donna galleggiante, semitrasparente, medio orientale, sì, diciamo. Sì, senti, fidati di una voce incorporea come sono io. Lei è la Madonna, abbiamo degli amici in comune, siamo gli stessi giri, non ti preoccupare. Quindi, senti, so che ti dico sempre Dio non esiste, Dio di qua, Dio di là. Però, senti, alla Madonna ci hai mai pensato? Guarda, senti, se vuoi ti lascio un volantino, una cosettina. E quindi io sono stato estremamente deluso dalla mia coscienza, che al primo momento di debolezza mi fa questi scherzi, e secondo me si può cambiare la propria coscienza, cioè si può dare via, restituire, perché io a sto punto sai, magari prendo la mia coscienza, la rimetto nella sua scatolina, la mando indietro ad Amazon e con il rimborso che mi dà, al posto di lei nella testa mi metto Spotify Premium. Così i 4-5 mesi di vita che mi avanza almeno me li godo sentendo musica, no? Senti che bel silenzio che c'è qui dentro. Che bella stand up, che tu vai, ti fai due risatine, due cose. Vabbè, dai, grazie per essere stati depressi da me. Ci vediamo lì fuori. Nick Porta, che ci dà appuntamento all'inferno, dove effettivamente sarà la sua prossima serata, quindi non perdetevela, lui la farà lì. No, dai, bravo Nick Porta, un altro applauso per lui. Stavolta non ho nemmeno rotto il palco, cioè cosa volete di più, cazzo? Già? Sì, va benissimo. Me lo so perso. Parlatene insieme. Così. Benissimo, allora adesso io sono rimasta senza scaletta perché sono molto bionda io, quindi non so assolutamente che vado a memoria e chiamerò qualcuno a caso di voi. Quindi interroghiamo. No, aspetta, no, la so. Allora, il prossimo comico in stato di grazia, che è il secondo di questa sera ad esibirsi, allora lui è uno, per quanto mi dice, è uno che viene da Torino per convertirci. Non so a cosa, ma lui si chiama Alessandro Pesce. Salve, sono Alessandro Pesce, sono venuto fin qua a Torino e sono molto contento di avere davanti il pubblico delle grandi occasioni. Allora, stasera parliamo di supereroi. Io voglio cominciare con una domanda. Per alzata di mano, quanti seguivano, sono appassionati di supereroi? Vabbè, dai. Esatto, cioè, sono quegli inizi forti, coinvolgenti. Va bene, preferite Superman o Batman? Batman. Rispondono sempre tutti Batman. Cioè, statisticamente, no, Batman è molto gettonato, perché anche a me, fin quando avevo 17 anni, piaceva molto Batman. Con la sua tecnologia, no? L'uomo scazzottata e tecnologia che poi a ogni scazzottata lo smartphone lo rompeva. O Superman con i suoi superpoteri, no? Questo superuomo che riusciva a combattere contro milioni di avversari, un po' il Salvini dei supereroi. Poi si faceva fregare dalla criptonite che nell'intimità chiamava i Isoardi, no? Cose di questo tipo. Però poi crescendo ho apprezzato più supereroi un pochino più problematici, tipo supereroi con super problemi, supereroi diventati famosi per frasi del tipo da un grande potere derivano grandi responsabilità. E così sono diventato fan di Gesù Cristo. Allora, che cos'è che tutti sanno di Gesù Cristo? Quello che non dovrei neanche dirvi. Intanto veniva da una famiglia particolare, figlio di Maria, primo esempio di utero in affitto, figlio di Giuseppe Falegname, cioè il padre adottivo, Giuseppe Falegname che a differenza di Geppetto, per fare un figlio non ha neanche avuto bisogno di una sega. Poi Gesù aveva seguito per un po' di tempo l'attività del padre da falegname, faceva i tavoli della Madonna, insomma, queste cose qua, no? E poi, però, perché Gesù Cristo è un supereroe importante? Perché è veramente diventato famoso? Perché il supereroe medio ci insegna a combattere contro i nemici, invece Gesù ci insegna ad amare i nostri nemici. Insomma, i film d'azione con Gesù protagonista sarebbe una gran rottura di coglioni. Del tipo, io ti lancio il raggio alfa beta e io ti perdono. Cioè, capite? Muore subito lì il film, no? E però Gesù ha dato questo grande messaggio, no, di amare i propri nemici. E per l'uomo comune è difficile amare i propri nemici. Cioè, per l'uomo comune le persone più difficili da amare sono i terroristi, i ladri e le suocere, no? Mediamente. Ecco, Gesù, no, riusciva anche a guarire le suocere, aveva salvato la vita la suocera di Pietro. Cioè, dico, ma cioè, come fai a guarire una suocera? Tu che non sai neanche cosa vuol dire una suocera, Gesù, tu che non sei neanche sposato, no? Però faceva queste cose, insomma. Poi era un po' megalomane, cioè, aveva cominciato a moltiplicare pani e pesci, si è dato la grande distribuzione, qui dimostra che era ebreo, però non voleva fare il grande imprenditore e non voleva neanche lavorare da papà falegname, anche perché i tempi falegnami gestivano il business delle croci, no? C'era un po' di conflitto di interessi. E così si è fatto un periodo da mago. È diventato famoso per i suoi miracoli, no? Faceva delle cose straordinarie, tipo ad esempio camminare sulle acque. Ecco, camminava sulle acque, quindi gli illusionisti del tempo, cioè, soffrivano di complessi di inferiorità. Lo stesso David Copperfield, 2000 anni dopo, aveva complessi di inferiorità. Cioè, pensate che lo speciale di David Copperfield è il 24 dicembre, no? E per rompere i coglioni hanno messo la mezza di mezzanotte gratis e con Pandoro Finale. Cioè, capite? Capite che non regge la cosa, no? Cioè, rischiava il posto pure lui, povero David Copperfield. E poi Gesù Cristo faceva delle cose anche importanti, anche utili, ad esempio, no? Resuscitava i morti. Cioè, questa cosa qua di resuscitare i morti, anche dal punto di vista burocratico, può creare un problema. Pensate come si sono sentiti gli impiegati del comune quando Lazzaro è andato a riscuotere il suo certificato di morte, ad esempio, no? O ad esempio, poi ridava la vista ai ciechi, no? Faceva camminare i zoppi. Insomma, se fosse al governo oggi, taglierebbe con le pensioni di invalidità. Questo è poco ma sicuro. E poi faceva delle cose anche divertenti, tipo ad esempio, ecco, aveva trasformato l'acqua in vino. Cioè, erano un matrimonio nel bel mezzo del deserto e ha trasformato l'acqua in vino. Bella mossa, no? Trasformare l'acqua in vino nel bel mezzo del deserto. Però, cioè, erano lì, no? Mancava il vino, cioè mancava il vino. E ha fatto questa cosa stupefacente, no? E pensate, al giorno d'oggi, cioè, tu vai in discoteca con Gesù, no? Entri con un'aspirina e lui te la trasformi in una pastiglia di ecstasy. O a una festa in cui sono tutti lì, tutti mogi, presi male ad annoiarsi, tu gli porti un chilo di farina e Gesù ti organizza un coca party. Cioè, capito? No, arriva pure là, pure il cancro, mio ospite d'eccezione. No. E poi, dopo il periodo da mago, Gesù si è fatto il periodo da stand-up comedian. C'aveva un repertorio di parabole clamoroso, cioè lui 50 minuti te li teneva tutti. Cioè, il pezzo più famoso è la parabola del figlio prodigo. Cioè, pensate che riusciva a fare anche le vocine, il padre, il figlio, il vitello grasso. Poi si era specializzato nelle barzellette sui farisei. Cioè, sapete quanti farisei ci vogliono per cambiare una lampadina? E cazzo, se ne è accorto dopo che le lampadine non esistevano, no? Cioè, era uno avanti, facevamo una comicità che era veramente troppo avanti e difficile da capire. E se Gesù fosse vivo oggi, però non avrebbe veramente niente da ridere, perché il mondo dei cristiani per tanto tempo è stato diviso, ancora adesso è diviso, tipo ad esempio tra cattolici e protestanti. Ci sono queste divisioni, ad esempio i cattolici hanno il clero, quindi hanno i preti, i vescovi, i cardinali, e quando vanno a confessarsi si confessano col prete e quindi si sentono bene perché dicono, beh, sarò sicuramente meglio di lui, no? Cioè, sarò sicuramente meglio di un prete. Invece il protestante si confessa direttamente con Dio e si sente una merdaccia, cioè si sente addirittura la voce di Dio che gli dice, io sono Dio e voi non siete un cazzo. Tipo, queste cose. Poi, per essere un protestante, tu devi avere successo, no? Devi avere successo, devi avere i soldi per far vedere che sei nelle grazie di Dio. Per essere un santo cattolico ti basta camminare a piedi nudi, parlare con gli uccelli e un lupo ogni tanto. Insomma, i cattolici sono... i protestanti sono più New York, i cattolici più San Francisco, no? Cose così. Poi vabbè, torniamo a Gesù. Alla fine della storia Gesù è stato arrestato. È stato arrestato per blasfemia. Lui diceva di essere figlio di Dio. Quindi è stato arrestato per blasfemia, bestemmia e poi perché spacciava le aspirine. È stato arrestato, è finito davanti a Ponzio Pilato. Ponzio Pilato si rivolge alla folla. Chi volete libero, Gesù o Barabba? Cioè, pensate al giorno d'oggi. È come se ti facessero vedere su un canale Il Grande Fratello, sull'altro canale i film di Bertolucci e si vedessero tutti Il Grande Fratello. Cioè, pensate come sono cambiati i tempi. È come se ti chiedessero preferisci la Nutella o la merda, e cosa hanno scelto? La merda, perché non ha l'olio di palma, no? Cose del genere. E poi pensavano di aver vinto gli uomini, il male, i cattivi, no? E invece il più grande supereroe della storia, dopo 3 giorni, è risorto, è asceso al cielo con il macigno del sepolcro in mano, con Maddalena sotto il braccio, sottofondo di Jesus Christ Superstar, David Copperfield sotto che diceva cazzo, un'altra cosa che non so fare, e voi preferite ancora quello sfigato di Batman? Grazie. Non mi ricordo più il tuo nome. Grazie. Vabbè, adesso si è esibito questo stronzo, no? L'avete visto? Possiamo passare alla parte più seria, più divertente anche, no? Volevo anche dire una cosa carina, ma non se la merita, quindi andremo avanti. Lui poi Dado non lo chiamiamo più, giusto? Non... No, no, cose nostre, scusaci, grandissimo, un po' smemorato, ma grandissimo. Allora, andiamo avanti con la serata, ma prima di andare avanti devo assolutamente ricordarvi una cosa. Sapete che sulle vostre sedie avete trovato delle buste? Ma prima non vi ho detto cosa farvene, perché se voi foste delle persone così meravigliose da metterci dentro veramente qualche soldino, vi starete chiedendo, e poi dove li mettiamo? Le portiamo a casa? No, perché altrimenti non servirebbe a un cazzo. C'è proprio una zona buste, diciamo, prima dell'uscita, c'è zona buste in grande, sapete leggere, sì. Ma che bravi, vedi quante soddisfazioni che mi date, e potete lasciarle lì, ecco, e poi le prenderemo noi. Ok, perfetto, possiamo andare avanti dopo questo piccolo spazio pubblicità, sembra Spotify questa serata improvvisamente. Ogni due o tre comici c'è la cosa pubblicitaria. Ah, come sono simpatica. Benissimo, andiamo avanti con il terzo comico in stato di grazia di questa sera, che in realtà è una femmina, è una creatura meravigliosa. Allora, devo fare un altro annuncio promozionale importante. Lei domani sera porterà per la prima volta il suo nuovo spettacolo che si chiama È difficile essere facile, in un locale misterioso che scoprirete solamente andando sulla sua pagina Facebook, che si chiama Clara Campi! Grazie, grazie Fambruna! Oggi ho rivisto una mia amica con cui non parlavo da un sacco di tempo, no? Allora ci siamo messi a chiacchierare, insomma, delle cose con cui ti metti a parlare con le persone che non vedi da tanto, no? Di cazzi. E praticamente adesso la mia amica è un po' che sta uscendo con un nero e devo dire che la cosa mi ha stupito, cioè veramente questa notizia mi ha stupito, anche se dai, non dovrebbe stupirmi, insomma, lei è grassa. No, vabbè, allora io lo so, è che a me non, è che a me fa un po' strano perché a me non piacciono i neri, so che piacciono un sacco di ragazze e va benissimo. Però per me è più un po' una questione ideologica, cioè io sono contraria alla zoofilia. Troppo? Esagerato? Dai ragazzi, sto scherzando, ma è chiaro che sto scherzando, dai, io sono favorevolissima alla zoofilia. No, vabbè, allora io lo so che questa è una battuta assolutamente vergognosa, lo so, è una battuta razzista, una battuta ignorante, si può anche dire che sia una battuta fascista, sono assolutamente d'accordo, l'ho fatta intenzionalmente per vedere la vostra reazione, chi ha riso è un pezzo di merda. Io non lo dico, era proprio intenzionale. Sì, vai. No, vabbè, assolutamente, l'ho fatta proprio come provocazione, è chiaramente una battuta che sorpassa il limite, siamo tutti d'accordo. Però io non posso fare a meno di chiedermi, ma dov'è esattamente questo limite? Cioè io come faccio a sapere se supero il limite o meno, no? Cosa devo fare? Per stare sul sicuro allora scherzo solo su me stessa? Cioè dobbiamo fare che ognuno può scherzare solo su se stesso? Ma quindi scusate, allora dobbiamo fare tipo che solo i neri possono scherzare sui neri? Solo gli ebrei sugli ebrei? Solo i preti sui pedofili? No, no, sarebbe troppo limitante. Allora io ci ho riflettuto e ho elaborato una teoria, no? Quindi fate così, ragazzi, e siete sul sicuro. Potete scherzare su una determinata categoria di persone solo in due casi. Il primo, ovviamente, è se si fa parte di quella categoria. Ok, grazie al cazzo. Il secondo è se si è andati a letto con un membro di quella categoria. E questa ragazza è la ragione per cui io posso scherzare su tutti. Tutti, bianchi, neri, alti, bassi, nani, gay, lesbiche. Sì, anche i gay, vabbè. Ma che poi, no, ma che poi, appunto, parlando di froci, no? No, cosa ho detto? No, che poi, no, aspetta, che però, sì, sono andata a letto con dei froci, però sono andata a letto non solo con ogni rappresentante di qualsiasi categoria umana, ma io posso anche fare, tipo, le combinazioni di categoria, no? Cioè, ad esempio, io, storia vera, quando stavo a New York, ho frequentato per un periodo un nano nero, e lo chiamavo treppiede. Comunque, tornando... Ma non è che fosse il cazzo particolarmente lungo, erano le gambe gran corte. Comunque... No, comunque, tornando al discorso froci, che questa parola fa sempre ridere, no? Cioè, tornando al discorso froci... No, l'altra sera ho fatto uno spettacolo, no? Poi dopo è venuta una ragazza molto carina a farsi complimenti, a dire che si è divertita, però mi ha fatto notare... che si era un po' offesa perché ho usato la parola frocio. L'ha trovata offensiva perché, insomma, suo fratello è gay. Cioè, quindi se tuo fratello non era gay io potevo dire frocio quanto volevo. Ok, vabbè. Vabbè, no, ma tanta gente ragiona così. Ho notato che tanti ragionano così, no? Tipo che ti vengono lì a dire ma non si può scherzare sugli omosessuali, eh? Lo è mio fratello? Riguarda me? Oppure... non si può fare le battute sul cancro, eh no, perché mio nonno è morto di cancro, riguarda me. Oppure, no, non si possono fare le battute sull'aborto, perché... Ma quello non riguarda mai nessuno. Però pare che sia sempre di cattivo gusto. Solo che se iniziamo a ragionare così, poi non ne usciamo più, ragazzi. Cioè, perché allora, ragionando così, non si possono nemmeno far più battute sull'evasione fiscale, perché suo zio è un dentista. No, non possiamo più, che ne so, fare battute sui politici, perché suo cugino è in galera, e quindi... No, non possiamo, non lo so, non possiamo più... Ragazzi, non si possono più fare battute sui parenti, mi raccomando, perché attenti, mia madre è una parente, ok? Quindi stiamo attenti. No, vabbè, non se ne esce più se iniziamo a fare così, no? Se iniziamo a stare attenti e non offendere nessuno, poi non si possono più fare battute. Cioè, le battute inoffensive non esistono, sono frasi che non fanno ridere, cioè non sono battute. E allora forse se vogliamo un mondo dove non dobbiamo offendere nessuno, dobbiamo trovare altri modi di ridere, no? Fanculo la stand-up comedy. Tiriamoci le torte in faccia. No, raga, però pensandoci sarebbe veramente poco sensibile nei confronti di chi muore di fame e sarebbe uno spreco di cibo e sarebbe una cosa troppo first world, quindi non dovremmo... No, ragazzi, no. Non so, scivoliamo sulle bucce di banana, tipo? Sì. Però sai cosa? Io devo controllare, perché magari fare una gag dove qualcuno scivola su una buccia di banana potrebbe essere poco politicamente corretto nei confronti dei fruttariani. Quindi dobbiamo stare attenti. E allora, non so, facciamo... Dai, la classica, facciamo che sbattiamo contro i rastrelli, no? Però io non vorrei che questo farebbe arrabbiare i giardinieri. Forse dobbiamo... Allora, sapete cosa facciamo? Me ne sto zitta. No, perché se poi io me ne sto zitta, arrivano i muti, indignati, a dire che sto ironizzando sul loro problema. Quindi non ne usciamo più. Allora, sapete, ragazzi, vi dico una cosa. Con tutta questa ipocrisia, no, della censura personalizzata, questi ragionamenti del «Ah, ma si può scherzare su tutto, ma non su di me!» Io posso dire che mi sono rotta le palle? No, perché poi arrivano le proteste dei trans. E allora sapete cosa? L'unico che ci ha capito qualcosa di comicità è Massimo Boldi. La vera comicità sono le scoregge. Grazie. Grazie mille a Clara Campi. Io sono rimasta al discorso del nano treppiede, quello lì. Poi voglio sapere, poi ne parliamo, perché voglio sapere. Si chiama Steve a Facebook. Guarda, io ce l'ho su MySpace come amico, però è passato un po' di tempo, però. Lui non è cresciuto nel frattempo. No, era per capire se fosse un minorenne o un nano vero, no? Stavo solo cercando di. No, altro così. Interessante. Andate un attimo fuori che abbiamo delle cose di cui parlare. Comunque, benissimo, io giustamente lascio sempre la scaletta lì perché mi piace essere spavalda e far finta di aver studiato qualcosa prima di essere arrivata qua, non è vero. Comunque, possiamo passare al quarto comico in stato di grazia. lui si è descritto 5 minuti fa, non so se nel frattempo si è cambiato qualcosa, come una persona super entusiasta, davvero, alla grande. E io gli volevo dire, cosa ci fai qua? Comunque un grande applauso per Raffaele Cosentino. No, io sono contentissimo. No, sembra che mi guarda. No, io sono, non sono un ragazzo fortunato, dovete sapere che per me da piccolo non è stato facile, no? Perché io avevo solo un... Beh, non è facile neanche dirvelo, io avevo solo un joystick della PlayStation, no? Cioè, solo un joystick della PlayStation, cioè non anche la PlayStation, un joystick, senza... Casa mia non è che eravamo ricchi, però ecco, il senso dell'umorismo non mancava per loro. E questo mi ha subito fatto capire che la vita è un po' una merda, cioè un po' ingiusta, no? Quindi mi diavo i supereroi, perché loro, ecco, combattevano per questa giustizia, e quindi volevo essere uno di loro, perché, cioè, sicuramente un supereroe ce l'ha la PlayStation. E quindi ho pensato, il più accessibile qual è? Spider-Man, forse, no? Perché lui non è che ha fatto un granché per diventare un supereroe, cioè si è fatto semplicemente pungere da un ragno. Poi oltretutto mio zio non mi stava neanche tanto simpatico ai tempi. Questa meritava un pochettino di più. Grazie. E quindi ho cercato in tutti i modi di farmi pungere qua e là, ma non c'è stato modo. Finché un giorno, invece, andando al parchetto dietro casa, finalmente qualcosa mi aveva punto e era una siringa. Buonasera, mi chiamo Raffaele Cosentino e sono un tossicodipendente. Qua ci voleva l'applauso, non prima. No, allora, quindi sono Raffaele, ho 28 anni, vengo dalla provincia di Lecco e come hobby, sì, mi piacciono i piedi. No, vabbè, no, in realtà ho 29 anni. No, voi non sentite una sirena? No, sono un po' paranoico. Un po' come il bambino del sesto senso che vedeva la gente morta. Io vedo la gente, cioè L apostrofo agente. Che questa è bella. No, basta. E quindi, come va avanti il pezzo? No, e quindi appunto c'ho un po' l'ansia, però ecco, nel caso arrivasse qualcuno, comunque io sono senza giubbotto stasera e quello non è il mio e neanche quello che c'è dentro. No, non è una giornata che è iniziata bene oggi, perché stamattina volevo mandare una faccina che ride a un mio amico e gli ho inviato una faccina che ride storta. Cioè, avete presente quelle... Cioè, perché le ha messe? Cioè, da fastidio effettivamente. Tu hai sempre visto una cosa dritta e... Cioè, storta, perché? Pensavano che non ce ne fossimo accorti. E niente, quindi, ma avete ragione quello che state dicendo. Che c'è qualcuno che sta anche peggio di me. Io ho un amico, Pino, e lui in sto periodo non gli va mai bene. C'è sempre qualcuno che cerca di conciarlo per le feste. Pino. Questa è così. No, ecco, sono bravo, lo so, si vede. E però non so, com'è che sono visto? Cioè, com'è che hai visto un artista, no? Un tipo figo, brillante, oppure un tipo, non so, emarginato, un caso umano, un tipo strambo, un tossicodipendente o alcolizzato, dipende poi dalla sfumatura che gli si vuole dare. Perché se è così, io, ecco, ci sono già quasi. Cioè, mi manca il resto per essere un artista. E non so. Forse dovrei iniziare a guadagnare dei soldi, no, forse così non sarei ancora meno un artista. Però ecco, qualcosina un po', visto che adesso sono popolare come le scarpe con gli strappi nei ragazzini 12 anni, qualcosa si sta iniziando a muovere. Infatti tutte le ragazze che mi hanno sempre rifiutato iniziano a scrivermi per dirmi che comunque loro mi rifiuterebbero di nuovo. E niente, non so perché non sono fortunato con le ragazze, ma mai, anche sulle applicazioni per incontri che ci sono ora. Cioè, in realtà è facile, io metto sì a tutti, anche, ma neanche la peggio ombra di un boiler, proprio niente, no? E una volta in realtà una ragazza mi ha scritto e mi ha chiesto se lavoravo in Polonia, no? E io le ho chiesto, no, perché in Polonia? E lei mi ha fatto notare che nel mio profilo c'era scritto che lavoravo presso le miniere di sale Bielizka. E io ho risposto, ma va, dai, l'ho messo per ridere, poi in Polonia penso che faccia anche cagare oltre che freddo in Polonia. E lei mi ha risposto, ah, simpatico. No, lei mi ha risposto, sono polacca io comunque. E quindi, niente. E però mi ha fatto capire una cosa, mi ha fatto capire che forse bisogna stare un po' più attenti, perché se metti che lavori per essere miniere di sale non è molto attraente come cosa. E forse anche quell'altra roba lì nato a Baghdad non è che mi potesse aiutare più di tanto. No, sentite di nuovo le sirene. Io vado, grazie. Raffaele Cosentino, grazie mille. Al termine della serata darà il numero di telefono della persona che lui chiama sempre, Giacomo, che dà tante cose buone che danno gioia e allegria, così devo dirvelo. Sì, sì, ci sarà questo discorso. Benissimo. Dopo il momento. Prego, volevi continuare? No, dicevo, era proprio un Natale. Allora, però tu non disturbare niente, sai? Che già è difficile portare avanti. Che c'è, cazzo? L'unico che è venuto veramente. Anche Nick Porta, dato, non lo dobbiamo chiamare per forza tutte le sere. Cioè, adesso vediamo di fare anche un po' di selezione, vediamo come si comportano e poi via dal cazzo. Allora, quindi possiamo andare avanti con la nostra serata, però mi sembra che vi stiate divertendo sinceramente un po' troppo. Non c'ero abituata, non è vero, queste serate sono sempre un successo, però tendenzialmente non c'ero abituata e quindi volevo fare qualcosa per raggelare un po' l'ambiente, dire una cosa semplicemente. Pronti? Sì. Cosa fate a Capodanno? Suicidio. Suicidio, sì, era questo il mood che volevo. Grazie. Perfetto, allora possiamo proseguire con tanta gioia in questa serata. Siamo arrivati al quinto comico in stato di grazia e qui un po' mi emoziono perché lui è veramente il genio, la mente che ha creato tutta questa rassegna di stand-up qui all'Arcimartiri di Turro. Prossima volta però per favore un nome più semplice, perché Arcimartiri di Turro nella mia testa diventa tipo Arcimartiri di Rutto, cioè diventa proprio una cosa complicatissima da dire veloce. Anche, Giorgio, ad esempio, tu come lo direi? Dillo veloce. Arcimartiri di Turro. È posto, e tra l'altro anche l'organizzatore, la persona che sta per presentarvi è Mosha. Quindi si parte proprio da una questione di masochismo importante, che è fondamentale per chiunque voglia fare il comico nella vita. Lui è veramente la trinità della stand-up, Dado Tedeschi. Grazie. Il fatto di essere sul palco ha tanti vantaggi, è un grosso svantaggio. C'è il fatto che mi rendo conto di quanta gente c'è qua stasera, che più o meno li conosco tra l'altro tutti, che più o meno tutti hanno visto le cose nuove che sto provando, per cui se facessi un pezzo nuovo, sarebbe nuovo tranne che per voi, che l'avete più o meno già vista, è vero, c'ho la R moscia, ma serve per distrarre da altre cose mosche che ho. Vabbè, questa battuta trash. Allora, ovviamente lo dico, metà del mio pezzo verterà sul mio cazzo piccolo, perché è un argomento che in qualche modo più o meno funziona sempre. Io ero molto triste che ci fosse poca gente prima di salire, poi mi sono ricordato di che cazzo succede quando i posti sono troppo pieni e quindi tutto sommato stiamo meglio noi, hai visto? Questa è innegabile, si è parlato di un po'... Allora, vi spiego una cosa, io dovevo fare un pezzo stasera, cioè l'avevo preparato, però per fare il pezzo che volevo fare stasera mi servivano tre cose prese al supermercato. Quindi sono andato al supermercato per prendere le tre cose che servivano, ma le hanno tolte perché hanno messo tutte le cose del Natale. Quindi non farò il pezzo che avevo previsto di fare. A me sembrava un aneddoto molto triste, ma vedo che non risulta così per voi. Che dire, è un periodo un po' particolare della mia vita. È un periodo che, come faccio a dirlo? Allora, fino a ieri avrei detto che era una vita di merda. Poi, oggi ho ricevuto una telefonata. Era la merda che dice, ma perché mi tiri sempre in ballo? Inutilmente, voglio dire... Sono in un periodo particolare, in realtà mi sto lasciando con mia moglie, sapete come funziona, no? In questi casi, quando ti lasci, la colpa è un po' di tutti e due, e anche in questo caso è stato così, perché colpa di tutti e due, perché io l'ho tradita e lei mi ha scoperto. E quindi capite che la responsabilità è un po' di entrambi, e allora ho cercato di tornare dai miei genitori, però dicembre il cimitero fa troppo freddo, per cui ho deciso... Io ho dei ricordi bellissimi legati ai miei genitori. Mio padre è sempre stato fissato con lo sbarco sulla Luna, tant'è vero che ho una sorellina nata il giorno dello sbarco sulla Luna, mio padre la chiamava Luna. Poi a 10 anni ha perso un braccio in un incidente, adesso la chiamiamo Luna meno un quarto. Triste, ma Pensate che questa battuta del 92. Avevo fatto una battuta del 90, perché è questo. A proposito, volevo chiedere una cosa. Voi siete disposti, è un patto che stiamo stringendo noi in questo momento, siete disposti a diventare miei fan? Sì, sì. Spiego perché ve l'ho chiesto, perché i miei primi spettacoli li ho fatti nel 90 e ho entusiasmato da subito e da subito ho avuto un sacco di fan che chiaramente oggi sono tutti morti e allora ho bisogno di ricreare insomma una cornice di fan. Allora, quindi per la gioia dei miei, volevo poi appunto parlare quell'attimo dei miei genitori. I miei genitori comunque abbastanza meravigliosi, soprattutto ecco, devo dire una cosa, mia madre mi menava ma per una sola cosa, menava quando io lasciavo in disordine la stanza, era l'unica cosa che la faceva incazzare per cui mi menava. Mio padre non ha mai alzato le mani su di me, veniva solo a casa mezz'ora prima per mettermi in disordine la stanza. Questo chiaramente ha creato dei problemi, per cui insomma c'è un lieto fine in tutto questo, i miei genitori sono morti ma io sono contento. Tra l'altro no, la cosa bella è che mia madre ha voluto farsi cremare perché lei era una fumatrice in vita, ha voluto farsi cremare per continuare a fumare ancora un po' di ore. Invece mio padre, uomo tutto d'un pezzo, ha voluto farsi seppellire intero nella cassa da morte e adesso come si dice, l'urna con le ceneri di mia madre è posizionata esattamente a metà della cassa da morte di mio padre, quindi se ci pensate mia madre starà sui coglioni a mio padre per l'eternità. Io la trovo una cosa molto romantica, sinceramente, ma non vi vedo commossi, per cui vi parlerò del mio cazzo piccolo. Che è un argomento commovente, no? Sinceramente, ho letto una cosa oggi, che pare che se non fai sesso, il tuo cazzo si accorci di 1-2 centimetri. Non avevate sentito? La sera di Egode si accorci, ho fatto di peggio, cioè, ho fatto una cosa in cui ero totalmente dislessico, stasera accorci va già benissimo, sono felice, fa anche un po' ridere. Non è vero, pare che si accorci di 1-2 centimetri, quindi insomma io sono quasi pronto per avere un clitoride e questa è una cosa che in qualche modo mi emoziona molto. Tra l'altro io sto anche aiutando questa pratica perché presto mi circonciderò. Tant'è vero che mi sono fatto vedere dal chirurgo, mi ha visto nudo e ha cambiato il nome da circoncisione a colpo di grazia. E non è stato carino, non è carino che tu rida in questo modo, grazie a parlare. Non voleva esserci un doppio senso, peraltro, io capisco che ogni volta che si tira in ballo il tuo nome. E quindi insomma niente, però quella cosa bella di un padre, io sono anche un padre, so che è inquietante pensare che io possa essermi riprodotto, ma è successo. In realtà i miei figli, cioè soprattutto il mio figlio più grande, perché scusate, questa è la parte nuova, quindi quella che non mi ricordo ovviamente, no, non è che non me la ricordo perché è nuova, non me la ricordo perché c'è l'Alzheimer, ma al di là di questo, no, spiego, noi spesso riversiamo sui nostri figli i nostri sogni, per cui io giocavo male a calcio, cioè io ho giocato solo una partita con i Pulcini dove ho fatto 2 gol ma nella mia porta e allora ho riversato tutto su mio figlio e mio figlio ho deciso che sarebbe stato un grande calciatore, gioca di merda anche lui in realtà, però lui gioca di merda in modo più intelligente, cioè lui usa il calcio per ingrassare, spiego come funziona, lui fa il portiere. Per cui tutte le volte dice a sua madre ho la partita di calcio e mia madre, sua madre gli dà da mangiare di più. Lui mangia di più, va a giocare a pallone, fa il portiere, sta in porta. Di solito lo mettono in campo quando c'è una squadra scarsa, per cui gli altri sono sempre in attacco e lui è lì, fa cubo di Rubik, insomma un po' di roba così. Poi quindi non fa un cazzo, poi torna a casa e dice mamma ho giocato. E sua madre gli dà ancora da mangiare, cioè funziona così, quindi... Tant'è vero che davanti ai suoi amici ci sono, io mi vanto, dico mio figlio è come Higuain, è bravissimo, no, è un ciccione. Devo dire che l'altro mio figlio, Sergio, il grande, in qualche modo mi ha vendicato perché ha un cazzo enorme, cioè, veramente è una cosa. No, io me ne accorgo perché lui è molto timido, per cui praticamente quando fa la doccia non vuole che io entri perché non vuole che lo veda nudo. Però se dico vabbè, ma allora tira la tenda così non ti vedo, il problema è che quando lui tira la tenda io vado in bagno, devo fare il giro largo e quindi però il problema è che avendo io il cazzo piccolo, avendo lui il cazzo molto grosso, non capisco da chi l'ha preso, secondo me dalla mamma, io ho questa convinzione. Comunque, al di là di questa cosa, come ho detto, mi sto separando, anche per questo fatto che non facciamo mai l'amore. L'ultima volta che abbiamo fatto l'amore è stato perché lei è andata all'IKEA. Attenzione, non ho detto perché siamo andate all'IKEA, ho detto perché lei è andata all'IKEA. Cioè lei me l'ha data riconoscente del fatto che io non ci fossi andato. Perché l'uomo all'IKEA rompe i coglioni. Adesso non voglio tirarla lunga sull'IKEA perché sennò diventerei troppo cabarettista e troppo poco stand up, ma questo è un fatto vero. Ma lei me l'ha data l'ultima sera, l'ultima volta che è andata all'IKEA, e so che mentre scopava con me pensava a un mobile IKEA. Intanto io lo so perché tutte le volte che la stavo per far venire lei urlava Billy, Billy, Billy. Quindi questa... è una povera, però quella volta lì devo dire sono riuscito a farle raggiungere l'orgasmo e me ne sono accorto perché è uscito dall'armadio il tizio del Luna Park che ci ha dato il peluche, quindi è stato veramente una cosa meravigliosa. Anche se poi va detto che io nel tempo ho anche migliorato le mie... Io so che Clara stava ridendo per cazzi suoi, però mi facevi segno che siamo a tempo, ho proprio il finale, tranquilla. No, credevo, no, è giusto che qualcuno tenga il tempo a me, non è che io faccio quel cazzo che voglio, cioè dovrei, però no, lo stesso. No, in realtà stavo dicendo, cosa stavo dicendo? Ah no, stavo dicendo che in realtà... Tizio di Luna Park. Tizio di Luna Park. So che questo pensiero animerà tutte le vostre prossime scopate, è la mia vendetta in realtà. No, devo dire che io comunque mi ero anche preparato bene per cercare di essere migliore, ho lasciato le categorie YouPorn che vedevo abitualmente prima, cioè la categoria coccole e pisolini, per avventurarmi in una categoria che vi consiglio caldamente, se riesco a ricordarmela bene perché anche questa non l'ho ripassata però... La categoria è donne maori che scopano coi murales convinti che siano i loro mariti. Ragazzi, è straordinario. Grazie. Dado Tedeschi. E soprattutto volevo dirvi che il tizio del Luna Park è qui. Dove? No, non è vero. Devo solo prendervi per il culo, pensavo fosse evidente, ma John è un sognatore, lasciamo stare. Sì. Tu cercalo, lo troverai. Perfetto, benissimo, mentre abbiamo perso John Vincent, che invece dovrebbe esibirsi questa sera, ma la cosa più importante da fare, missioni sue, possiamo andare avanti con la serata con il sesto comico in stato di grazia, che anche questa volta è una femmina. Allora... Io ho molta paura per questa presentazione, perché noi ci conosciamo già, in realtà siamo conosciute ieri sera, cose nostre, adesso fatevi i cazzi vostri anche ogni tanto. Comunque siamo conosciute ieri sera, anche ieri sera ho dovuto presentarla e avevo il terrore di chiamarla Francesca Cipriani. E capirete perché appena dirò il suo nome. Allora, lei vuole farsi presentare con una presentazione sempre umile per non far sembrare che me la tiro. Ovviamente lei se la tira tantissimo, ok, su questo. Bene, un grande applauso per Francesca Persiani! Grazie. Allora, a me la gente in genere sta sempre simpatica, no? No, infatti è una stronzata questa. Odio tutti, ma gli ebrei mi stanno più sul cazzo degli altri. Ma d'altronde, a chi non stanno sul cazzo? Cioè, io ho un nonno ebreo e mi sta sul cazzo anche lui, comunque, no? Sì. È straricco e non sgancia mai un soldo. Ma sapete qual è la cosa che mi dà più fastidio? Il fatto che debbano sempre stare lì a piangersi addosso e a sentirsi esclusi, quando comunque loro sono i primi a ghettizzarsi. Cioè, durante l'Olocausto, va bene, li hanno mandati nei ghetti, va bene, si sono fatti una doccia fredda, un po' tiepida, un mezzo bagno turco, ma sono comunque rimaste a vivere nei quartieri ebraici, cioè ci si sono autoconfinati. È come se Vladimir Luxuria, nonostante sia ormai accettata come persona transessuale nella società, nascondesse le parrucche in un buco nel muro e dicesse che non sono sue ed è un uomo etero con la fidanzata, cioè rendiamoci conto. Aspetta, questo lo tolgo perché mi ha rotto. Allora, che poi hanno anche le scuole ebraiche, no? E un mio amico negro ha provato a iscriversi perché stava cercando una scuola, sai, cioè per imparare le cose che imparano i negri, no? Tipo a prendere meglio l'IDS, queste cose qui. E gli hanno detto che innanzitutto doveva convertirsi e secondo circoncidersi il pene. Cioè, e questa non me la chiami forse discriminazione razziale? Cioè, già che ci sei, aggiungici come requisito non essere uno sporco negro, non lo so, cioè... Che poi nemmeno si rendono conto che l'idea Hitler per l'olocausto l'hanno date loro, cioè... Lui ha solo fatto marketing. Allora, Hitler aveva un'anima, no? Noto a tutti questo. Ha detto, come faccio a prendere il potere? Devo concentrarmi su qualche malandrino che sta sul cazzo a tutti. E logicamente... Chi è che sta sul cazzo a tutti e anche a se stesso? Già, vi siete già risposti, gli ebrei, ovvio questo. Da lì, comunque, lui ha usato le loro simpatiche idee. No, un esempio, nel vestiario già si discriminavano prima, no? Che andavano in giro col cappello lì, la barba lunga, la papalina al sabato, che senza non eri un true ebreo. Cioè, lui ha fatto un restyling. Grazie, grazie, cari. Ha fatto un restyling. Gli ha dato i pigiami con le stelle, ma l'idea era partita da loro comunque. Che poi un'altra cosa che mi sta sul cazzo degli ebrei è che tutti debbano dire, eh sì, sono intelligentissimi, no? Geniali, una roba mai vista. E ragazzi, cioè, possiamo essere d'accordo, ma mi cadono sul banale. Cioè, adesso dimmi come fa a essere acuto uno che, giuro, cercate su internet, se non ci credete, il sabato non può sciogliere i nodi? I nodi? I cazzo di nodi? Cioè, io vorrei andare da un ebreo un sabato, uno di quegli anziani, no, attaccati al respiratore, cioè, fargli un nodo alla roba lì dell'ossigeno, e poi digli, dov'è il tuo Dio adesso, eh? In ferie come te, stupido farloccone! E vedi che non li scioglie neanche gli altri giorni della settimana. Un'altra cosa è questa. Come fa a essere acuto uno che crede ad un Dio che non può essere rappresentato? Cioè, i cristiani si sono sforzati di fare dei disegni a riguardo. Cioè, questa è gente che viene lì e ti dice io, sì, ho un rapporto con Dio, no, sì. Cioè, conviviamo. Non l'ho mai visto, però conviviamo. Cioè, è qui. Non so dove, ma giuro che esiste, giuro, non uccidetemi. Cioè, è gente così, cioè, è più reale Babbo Natale, almeno è rappresentato. Che poi, perché non è rappresentato? Cioè, veniva male in foto? Mi pare, cioè, se la tira un po' sto Dio, cioè, facile così. Anch'io posso dire, sto in Molise e mi faccio una foto con la cartina, ma il Molise è più reale, cioè, ammetterete che è rappresentato. Cioè, che poi non esista è un altro discorso. Che poi con un ebreo non puoi nemmeno farci un discorso serio, che ti tirano fuori l'olocausto come i leghisti ti tirano fuori Marò. Cioè, tu gli fai una critica del tipo, David, i conti di questo bilancio sono fatti male, non è che potresti rifarli, abbiamo fretta. Sì, posso, ma non voglio. David, ti paghiamo per questo, cioè, abbiamo fretta, ti licenzieremo, se no. Ah, questa aggressività è anche Hitler durante l'olocausto, fanculo, non li faccio, basta, ciao. E finisce sempre così. Che poi, ho letto perché so anche leggere, l'ho imparato coi negri all'elementare, giuro. Ho letto che gli ebrei stanno diventando di destra, perché i poteri più ostili nei loro confronti sono sempre stati i progressisti. E parliamone, cioè, c'è qualcosa che non va in questa affermazione. Le tasse le vadono. Discriminare su base religiosa discriminano. Cioè, i campi di concentramento comunque non è che gli siano dispiaciuti tanto, cioè in Israele o li usano ancora e vanno che è una meraviglia, ma non è che mi staranno diventando un po' nazistelli? Cioè che mentre aspettavano il treno hanno imparato che l'attesa del nazista non è forse essa stessa il nazista? Cioè io questo adesso non lo so, però so una cosa importante, dato che starà finendo il tempo e vi state per suicidare, cioè che la cosa giusta per finire questo pezzo sarebbe andare da un ebreo e dirgli: il mio Dio è migliore del tuo, perché non esiste. Non è vero, sono lo stesso vino, visto che entrambi non sono rappresentati. Boom, fucking bitch! Grazie. Grazie a Francesca Persiani. Curiosità mia. C'è qualche ebreo in sala? Speriamo di no. Ciao! Come l'hai vissuta? Oh, ci sta. Ci sta, perfetto. Non querelarmi, Dio, già ci sta, quindi non litigherete per questo? No, no. Cosa cazzo sei qui a fare? Io volevo del sangue. In realtà sono del fisco. Sei del fisco. Cose sue, vabbè, nessuno gliel'aveva chiesto, ma voleva dare questa informazione, adesso ce l'abbiamo e ce ne faremo tantissimo. Grazie per aver dato un contributo importante a questa serata, voleva essere una gag simpatica, per colpa tua non lo è stata. Ah, ma non è che adesso ci sei te? Cioè, è la presentazione migliore di sempre, praticamente. Allora, passiamo al settimo comico in stato di grazia. Lui ha un cognome, diciamo, importante. Lui si chiama Simone Big Prawns, cioè Simone Gamberone. Non so dirvi perché. La sua presentazione è Vecchi che guidano, non lo so, lasciami stare. Così, io gli ho chiesto che voleva essere presentato, però abbiamo fatto una presentazione molto migliore di questa, e quindi un grandissimo applauso per quello stronzo di Simone Big Prawns. Grazie, simpaticissima, grazie. No, perché quando mi ha chiesto cosa vorresti, io non ho capito, ho fatto: allora Simone, per questa sera cosa? Poi ha raggiunto i 500 bpm e io non capivo più un cazzo. Credevo mi chiedesse di cosa volevo parlare, quindi spoiler. Infatti un giorno stavo guidando e di colpo mi hanno tamponato. Così, ma una tamponatina leggera, chiaramente mi sono spaventato un attimo, guardo e la macchina dietro di me stava accostando. E allora ho accostato anch'io e stavo già immaginando, cazzo, se è uno allora vado lì, gli dico questo, lui mi dice quello, io faccio così, lui mi tira un pugno, glielo paro di colpo in aria, e solite robe che pensi, se invece è una ragazza, no, tranquillo, non è successo niente, pettorali giganti, gonfi. E niente, arrivo alla macchina, guardo un po' dentro e mi trovo questa cariatide che non arrivava nemmeno al volante. E guardo dentro, chiaramente col cappello calato, guardo, faccio: tutto bene? No, guardi, la sua macchina è a posto, anche la mia, secondo me possiamo andare a casa così. Ma va tutto bene, se la sente di guidare? Così, io gli avrei anche creduto se non fosse che la macchina si stava ancora spostando e questo signore ha preso dentro un panettone di quelli gialli, così, si è svegliato perché evidentemente stava già lasciando il corpo, torna dentro, trasale, e io voglio assicurarmi che stia bene. Signore, ma se la sente, ha bevuto? Lui fa: sì, ma è appena... No, beh, ma questo l'ho fatto apposta. Storia vera, veramente. Cioè, secondo me bisognerebbe fare dei controlli un po' più severi sugli anziani, specialmente per lasciare loro la patente. Cioè, non puoi fargli solo il test della vista. Cioè, signore, mi legga la prima riga, e loro te lo fanno tipo S F. Cioè, non basta semplicemente che ci vedano, devi vedere anche la loro reattività. Secondo me bisognerebbe fare test pratici dove chiami l'anziano nella sua vettura, sali con lui, dice ok, facciamo questo tragitto. E i punti sono molto semplici, ad esempio, l'anziano rispetta i limiti di velocità, ritiro della patente. L'anziano non si è tolto il cappello dopo 5 minuti che è entrato nella vettura, ritiro della patente. L'anziano esita agli incroci, no, meno 5 punti. L'anziano è anziano, ritiro della patente. Sento una vena di pietà in questo applauso, ma va bene così. Pensavo che questo numero durasse molto di più, ma non è durato un cazzo. E quindi, boh, potrei... Simone, because... No, che tra l'altro ha sollevato un problema che vivo anch'io tutti i giorni, nel senso... Ci ho messo un sacco di tempo a capire, a dare precedenza, la differenza tra dare precedenza a una macchina e aspettare che ne arrivi una. Ok? No, è una casa mia, però guido veramente di merda. A questa è arrivata dopo, però è arrivata. Ma perché lei è una mia amica, altrimenti non. Vabbè, però fa molto ridere, pensateci, non è facile guidare. Guidate con prudenza. Bene. Perfetto, quindi dopo questo bellissimo intermezzo possiamo andare avanti con il prossimo comico in stato di grazia, che è l'ottavo di questa sera. Ma prima, sapete che sulle vostre sedie all'ingresso avete trovato delle buste? Sì, e a cosa serviranno mai? Al termine della serata potreste metterci dentro qualche soldino. In caso lo vogliate fare, all'uscita potreste lasciarle là, nella zona buste. Se sapete leggere, la trovate agevolmente. Ok, questa era sempre la quota Spotify, perché non abbiamo lo Spotify quello ricco, ma quello dei poveri che fa la pubblicità ogni tanto, no? Ogni tot pezzi. Quindi, fatto anche questo, passiamo all'ottavo comico in stato di grazia. Lui si è scritto da solo una presentazione lunghissima, ragazzi. Quante ore avete disponibili? No, non è vero. Ha detto, dice di lui, dovevo fare il pezzo, ma poi non ho potuto perché sono morto. Due volte, solo che la prima non è davvero. Se volete potete abbandonare la sala, avreste tutta la mia comprensione, ma altrimenti se rimanete un grandissimo applauso per Giorgio Franchi! Non l'ho scritto davvero, è stato un attimo. Poi te lo spiego. E effettivamente sono morto. Questa settimana vi volevo raccontare il perché, il cosa è successo. Dunque, io lavoravo al Luna Park, in questo momento è particolare, no, a quello di Novegro, quello anche con la ruota panoramica, io lavoravo, facevo il mimo. Io non so se lo sapete, sono il più grande mimo d'Italia. In cosa differisco da tutti gli altri? Praticamente gli altri gli chiedi fammi il muro, loro ti fanno il muro. Io sono più preciso, se mi chiedi di fare il muro, chiamo 8 mini bergamaschi e ti tiriamo su un muro così. Ci vuole un cazzo. E, non posso fare altro perché a causa dell'aereo moscia, chiaramente posso solamente stare zitto. Quindi ho deciso di andare da una logopedista per farmela correggere, ho chiesto ma è curabile, si può fare qualcosa. Lei mi diceva sì sì no assolutamente, nessun problema, tra l'altro poi l'aereo moscia ha detto così in confidenza è anche il mio difetto di pronuncia preferito, che è un po' come se il tuo geriatra ti dicesse Parkinson, adoro. Però capitano questi esseri umani, insomma mi ha chiesto a cosa fosse dovuta. Ho detto l'aereo moscia ce l'hanno tutti nella mia famiglia, padre, madre, cugini, zie, praticamente il nostro cenone di Natale sembra un grandissimo spot del Parmareggio. Quindi mi ha detto evidentemente è una cosa genetica, lei sa cos'è la genetica? Ho detto no, assolutamente, certo che so cos'è la genetica. Io per esempio ho preso gli occhi da mia madre, ho preso il naso da mio padre e ho preso il cazzo da mio zio. Solo che la terza non è genetica. Insomma, a Luna Park non mi pagavano, nel senso mi pagavano ma mi pagavano con i biglietti del Luna Park. Capita a volte magari che sul posto di lavoro ti lasciano quella cosina, si pare, no? Il souvenir dal lavoro. Carino, no? Cioè, poi io ho un cugino che fa il medico legale, quindi vi lascio immaginare. Insomma, non sapevo che cosa fare, né di sti biglietti, ci ho invitato mia cugina di 8 anni, che ha preso tutto quanto dal padre, è diventata una criminale provetta, io l'ho portata sugli autoscontri e ha iniziato a fare la parcheggiatrice abusiva. Al che il direttore del Luna Park è arrivato da me e mi ha detto, ma la devi educare sta ragazzina, io non ci posso fare niente, perché io non li so educare i bambini. Io appartengo ad un'altra generazione. Cioè, appartengo alla generazione a cui si diceva: se continui a fare i capricci, chiamo l'uomo nero. Adesso non si usa più. Adesso ai bambini devi dire: se continui a fare capricci, porti consenso a Salvini. Perché comunque il consenso a Salvini lo porti in qualsiasi modo. Qualsiasi cosa fai, alla fine hanno gettato lei fuori da Luna Park e hanno licenziato me. Il che iniziava a diventare un attimino un problema. Io l'ho presa malissimo, sono subito caduto in depressione. Dalla depressione poi ha cominciato anche l'insonnia e dal momento che i sonniferi costano troppo e io non avevo più un lavoro, per un mese l'unico modo che avevo di addormentarmi era entrare in un locale, ordinare da bere, tenere il drink in bella vista e sperare che passasse Bill Cosby. Ho provato a suicidarmi, prima di spararmi mi è passato davanti il film della mia vita e faceva così tanto cagare che alla fine mi ha preso Federico Moccia che voleva comprare i diritti. Ho deciso che mi dovevo vendicare. Dovevo fare un attentato. Allora mi sono ricordato che le Brigate Rosse, per ottenere le armi, erano andate a prenderle dagli ex partigiani. Ho provato a chiamare la sede dell'AMPI, il partigiano più vecchio aveva 51 anni, quindi non si è fatto niente, ma mi sono ricordato che qualche anno fa sono stato all'ultimo concerto di Prince in Italia e ho conosciuto parecchia gente di quell'età. Per dire, io a quel concerto ero il più giovane, il secondo più giovane era Prince, il terzo più giovane era il nonno di Prince. Quindi è stato molto bello, ma poi un concerto che io ricordo come se fosse ieri, un pubblico così vecchio che lui ha cantato 1899. Appena è partita la pioggia di Purple Rain si sono fatti 2 millimetri d'acqua, le vecchie hanno iniziato a farci sopra Aqua Gym, poi lui era scatenatissimo, no? Noi nel pubblico presi bene, lui che canta Imps, vabbè questo è Berbocchi, e appena faceva Imps tutti quanti che dicevano: dai cazzo ragazzi, dai, siamo presi bene, facciamo la ola, tutti insieme, 1, 2, 3, oissa! E quindi ci siamo divertiti un botto. Io ho preso un po' di numeri, allora l'altro giorno li ho chiamati per organizzare questo attentato. Ho preso il numero di una di loro, Gianna, questa simpatica anziana, praticamente la classica vecchia che va a provarci con i ragazzini nelle discoteche, no? Quella cozza che se la tira tanto, ma che alla fine non si caga nessuno, noi la chiamiamo il mitile ignoto. Le ho mandato un telegramma, ci siamo visti, ci siamo riuniti tutti quanti, abbiamo passato una bella serata, come i ragazzini, no? Davanti al falò ci siamo messi a cantare, uno aveva portato un clavicembalo, insomma abbiamo fatto sta seratina così. E alla fine le ho chiesto se mi potesse aiutare in questo attentato. Ha detto: guarda Giorgio, tu capiti a fagiolo, perché noi stiamo organizzando un attentato, perché adesso hanno spostato Don Matteo da Gubbio a Spoleto. E chiaramente gli abitanti di Gubbio si sono presi malissimo. Tra l'altro Don Matteo adesso è passato sotto Netflix, non so se avete sentito, che gli ha messo gli sceneggiatori di Narcos. E questo crea un attimino un problema. Adesso la trama è diventata che Terence Hill va in giro con la biciclettina, con la sua paresi facciale, arriva sulla scena del crimine e gli dicono: Don Matteo, meno male che sei arrivato, meno male che sei arrivato, c'è stato un regolamento di conti del cartello di Gubbio, sono morte 15 persone, abbiamo trovato 20 kg di cocaina e 60 milioni di dollari nella macchina di Pablo Escobar, che in questo momento è fuggito oltre il confine di Arquata del Tronto, cosa dobbiamo fare? Alla fine lui tira giù una sequela di bestemmie e lo scomunicano. Ho ottenuto questo esplosivo, sono entrato a Luna Park deciso a fare la finita. Ho deciso di fare un attentato in stile ISIS, che tanto alla fine, se fai un attentato in stile ISIS, chi ti dice niente? Avete mai letto i titoli di un giornale dopo un attentato? Di solito il titolo è: Imam getta 40 bombe a mano in una chiesa, gridando Allahu Akbar, sgozzando un prete agitato 5 bandiere dell'ISIS. Gli inquirenti non escludono la pista del terrorismo. Sono sempre titoli di questo genere. Allora ho deciso, vabbè, entro, sono entrato, mi sono messo le cariche esplosive addosso, mi sono fatto largo nella folla, mi sono messo largo, Allahu Akbar! Boom! Sono esploso. Ed ero nel paradiso con le 72 vergini. No, in realtà è che l'esplosivo non aveva funzionato ed ero da solo in mezzo al labirinto degli specchi. Allora basta, mi sono detto, esco, non urlo niente, mi faccio esplodere qua in mezzo, quella volta tiro la corticella e finalmente esplodo, muoio, vado in mille pezzi, tutta la gente che inizia a scappare, qualcuno muore, qualcuno si ferisce, qualcuno scivola sul sangue, e mentre la mia anima si stacca e inizia a salire in cielo e vedo il mio corpo distrutto, vedo un uomo che si aggira nella folla. È il mio medico. Si avvicina al corpo distrutto a terra, lo guarda e fa: morte violenta con esplosivi. Adoro! Grazie! soprattutto perché mi piace come questa cosa del tizio del Luna Park stia diventando un fil rouge di questa sera. Comunque, quindi John, puoi continuare a cercarlo? Fantastico, l'ho già trovato. L'hai già trovato? Sì. Cose vostre, vabbè, non voglio capire. Okay. No, no, va bene così, va bene così. Allora, adesso siamo arrivati al nono comico in stato di grazia, che sono io! Mi piace questo entusiasmo sulla fiducia. Cavie. Comunque, allora, vediamo cosa succede. Buonasera, sono Grazia Sambruna. Io ho 25 anni. Da 5 anni ormai. Una volta arrivata a quest'età, ti rendi conto che ci siano delle cose pericolosissime da fare. Come ad esempio, uscire con un maschio etero. Lo so. Questa sera questo pezzo affronterà un argomento che vuole scardinare i dettami della stand-up, i dogmi della stand-up, e vuole infatti parlare di maschi stronzi, un argomento di cui nessuno vi ha mai parlato fino ad ora. Ma io sono rivoluzionaria, ok? Perfetto, quindi stavamo parlando di quanto siete stronzi maschi, come ad esempio tu, Nick Porta, anche se non siamo mai usciti insieme, ma sulla fiducia. Perfetto, allora, per uscire con un maschio etero, prima di tutto dovresti trovarne uno. E mi dicono sia una condizione necessaria, ok? Una volta che lo trovi, ci esci, bevete qualcosa, ti sta simpatico, quindi hai già bevuto qualcosa. Poi magari lo trovi carino, quindi hai già bevuto molto. Ma a quel punto lui ti chiede magari di rivedervi, limonate, ti chiede di rivedervi addirittura. E tu pensi, cazzo! Sono al secondo appuntamento in 2 giorni, è un traguardo incredibile. Mentre tutte le mie ex compagne di classe si stanno sposando, sono al terzo figlio, io sono quasi arrivata al secondo appuntamento. Ok, sì, cazzo, sì. E ti dice, potremmo vederci domani sera, sei bellissima. Potremmo andare alla serata mamacita allo Zoo Latino. E poi non pago. Aggiunge, cerca di buttarla sulla politica. Perché più in basso di così non poteva andare, ma lui è un eroe, lui è un sognatore, un po' come John Vincent, come dicevamo. E lui arriva a dirti, ma hai visto che oggi Di Maio? E te lo dice con quell'orgoglio, capito? Con quella spavalderia che ti fa capire che sì, voi vi rivedrete sicuramente, sicuramente rivedrai questa persona entro pochi mesi, al massimo anni. Questa è una battuta storinelli, era carina anche, no? 5 stelle, grazie, grazie, grazie, un applauso, grazie, grazie, grazie. Bene, diciamo, forse anch'io ho le mie colpe, ma continuiamo a parlare di quelle dei maschi che sono stronzi. Un'altra categoria molto molto interessante è quella degli appena divorziati. Perdonami, Dado. Allora, gli appena divorziati, loro prendono questa cosa come una medaglia al valore, che si appuntano sul petto. Loro praticamente, once you divorce, you can never stop. L'ho detta male, però praticamente come le Pringles, ok? E per cui loro saranno appena divorziati per sempre. Tu non potrai mai capire il loro profondo, granitico dolore. E qualsiasi cosa ti sia successa durante il giorno non varrà una cippa rispetto a quello che stanno passando loro tutti i giorni. Può esserti morto il gatto, un parente, puoi essere finita sotto un tir, ma sei una stronza superficiale se cerchi di fargli capire che anche tu hai delle emozioni. Ok? Perché loro sono appena divorziati e tu non potrai mai capire il loro dolore. Mentre soffrono, si stanno ovviamente sgambettando 3/4 di Milano, però lo fanno con una sofferenza interiore. Che tu sei solo una ragazzina stupida e infantile, se non lo capisci. Possa tu, maschio appena divorziato, infilarlo nella prima presa di corrente utile. Grazie. Ma possiamo andare avanti, perché una volta che hai 25 anni per la quinta volta, ti rendi conto che quando hai compiuto 25 anni per la prima volta, scopavi di più, ok? Adesso il massimo dell'approccio che ti può arrivare da parte di un maschio eterosessuale è, ma sai che è bellissimo guardare vecchi film con te? Mi sembri tanto il mio amico Marco. Gender? No, è una vagina, lui è un pene, ma stessa cosa. In compenso però ho scoperto di avere anch'io una categoria di riferimento, un mio target. E praticamente il mio target, quello in cui riscuoto più successo in assoluto, sono le lesbiche anziane. Loro ci provano tantissimo con me, veramente. Allora, se per un maschio eterosessuale io sono praticamente invisibile, non c'è Gianna Nannini che possa resistermi. Lo dico con molta umiltà, però è vero. Però è assolutamente vero. La prima lesbica anziana che ci ha provato con me era praticamente identica a mia madre. E questo ve lo sto dicendo semplicemente perché ho bisogno di parlarne. Grazie. Scusate. Ma voi a cosa pensate quando state per limonare con una persona che vi piace tantissimo? Ad esempio tu, a cosa pensi quando stai per limonare con una persona che ti piace tantissimo? Mi hai preso la sprovvista. Beh, tu hai mai limonato? Sì, sì, però aggrotta anche le sopracciglia, tipo, vabbè, a cosa pensi? Niente, pianta grassa al posto del cervello e rimane lì, no? Non pensi a niente, ma sei fortunato, tipo, sì, basta, non ti rompo più i coglioni, vabbè. No, ma sei fortunato, perché io quando sto per limonare con una persona che mi piace veramente tantissimo, la mia mente viene invasa da canzoni trash pop anni 90, ok? Delle cose terrificanti che non mi ricordo nemmeno perché mi ricordo, tipo gli Ultra. Che cazzo, minchia, è vero? Non lo so, non agghiaccianti, no, per carità, esatto, non lo puoi più fare, cioè praticamente tu sei lì, loro erano la sottomarca dei Backstreet Boys. Chi sono i Backstreet Boys? In caso uscite da questa sala non siete degni, ok? Comunque loro erano quello, veramente una merda, hanno fatto una canzone sola, ma io quando sto per limonare con una persona che mi piace tantissimo, nella mia testa c'è solo say it once, say it twice, che già è imbarazzante, ma posso fare di più. Allora, quando sono proprio nella periferia dell'innamoramento, ecco, a quel punto posso rispolverare le M2M, che mi rendo conto nessuno di voi si ricorderà, loro neanche tu. Sono nella merda. Me, sì. Sì, sì, ma per carità, prima hai riconosciuto gli Ultra, pensavo ci fosse un rapporto tra noi, no, è andata male, vabbè. Comunque le M2M erano, ma vediamo, poi ne parliamo. Allora. Niente, sei etero? Sei etero? Sì, sì, mi dicessi la canzone, sei etero, sei gay, dicevo no. È rimasto lì. Sta diventando di tutto, bravo. Esatto. Vabbè, no, le M2M... Sì, certo. Le M2M, sì, certo, ovvio, vuoi proprio limonarmi tu stasera, vediamo. Allora... le M2M erano queste due ragazze, ha fatto una canzone sola, non si sa perché, siano finite nella colonna sonora del primo film dei Pokémon. E quindi, sì, e io ho la testa pervasa da questa canzone di merda, mentre finalmente sto limonando, sto per slacciargli i pantaloni, però voi capite che la faccia di Pikachu deconcentra, ok? Io, cioè, ormai per non rivivere più queste situazioni, ogni volta che capisco che una persona, un ragazzo potrebbe anche interessarmi, come prima cosa lo blocco da ogni social esistente perché non voglio rogne, ok? Detto questo, stiamo per finire, mi sono chiesta, mi chiedo da un po' di tempo, da tanti anni, perché io sia single da tanti anni e perché per datare la mia ultima relazione ci sia veramente bisogno del carbonio 14, ok? E mi sono dato una risposta, la risposta cazzo era facilissima, era davvero facile, e è stata sotto il mio naso per tutto questo tempo, letteralmente. Io non ho le tette. No, cioè credo che sia questo il problema dopo tutto, alla fine se ci pensate, Bebevio ha una sua categoria su YouPorn nel deep web, io no. Ok? Quindi deve essere questo il problema. Nessuno ha capito la battuta su Bebevio e sulla sottocategoria, voi state fingendo, siete delle brave persone, quindi mi complimento con voi. Non vedo proprio effettivamente dove sia il problema, perché comunque, non lo vedo davvero, ok, non vedo proprio dove sia il problema, perché dopo tutto posso vantare una terza abbondante, di costato. Grazie! Mi piace sempre prendermi per il culo, scusate. Allora, molto bene, posso riprendere in mano la scaletta con questo gesto anche ginnico che mi farà avere mal di schiena per i prossimi 25 giorni. Ok? E quindi andiamo avanti con l'ultimo comico in stato di grazia di questa serata. Lui è pazzesco, praticamente sembra il cattivo di 007. Se lo guardate bene, quando apre bocca è proprio lui. Allora, si chiama John Vincent. Un grandissimo applauso! You're so vain, you probably think this song is about you. You're so vain. Questa era diretta grazia. Allora, sono proprio inside jokes per cominciare bene la mia serata. Vabbè ragazzi, no, perché dovete sapere che la Grazia mi ha rifiutato, eh? Cioè io ci ho provato con lei, lei ha detto, frase meravigliosa, ha detto: guarda, di solito vengo rifiutata io, però con te è venuto proprio naturale. Quindi la risata poca che ho preso non era degno della cazziatone che prenderò da lei più tardi. Allora, cosa vi posso... non è assolutamente valsa la pena. Io sono John Vince, sono 4 anni che faccio il comico ormai, e devo dire che è stato un momento molto bello perché recentemente ho finalmente raggiunto un traguardo. Gli altri comici l'avevano già raggiunto prima di me, io l'ho raggiunto adesso, ovvero finalmente mi sono iscritto a Tinder. Quindi ho la possibilità di fare il famoso pezzo su Tinder, che è una cosa che ogni comico dovrebbe avere, cioè è una cosa assolutamente fantastica, meravigliosa. Io non vedo, cioè dovete capire, io non avevo Tinder perché avevo ancora un po' di amor proprio, e quindi a un certo punto ho detto: beh cazzo, sono 6 mesi che non ciulo, cioè insomma a questo punto vado su Tinder, così scopo sicuro. Allora vedo che capite già dove va a parare il pezzo, però seguitemi comunque, cioè mentre vado passo per passo. Vorrei dire, io ho preso Tinder una settimana fa. All'inizio onestamente ho detto: no, Tinder lo voglio affrontare diversamente dagli altri maschi, non voglio fare come fanno loro vanno dritto destra su tutte. No, io ho cominciato a pensarci, ho detto: no, questa qua bella ragazza, però vedo molte foto con la palestra, io non sono sportivo, le farei perdere del tempo, sinistra, ma senza volerle male. Ragazza non troppo attraente, però un po' artistica, mi piace, qualcosa mi intriga. Destra, tette grosse, destra. Questo è stato il modo in cui ho affrontato all'inizio, diciamo, l'esperienza di Tinder. Però è stato interessante che nell'arco della settimana ho visto la mia autostima fare una specie di parabola discendente, da vabbè è solamente un periodo di pausa temporanea, non vedrò mai più la figa finché vivo. E quindi conseguentemente adesso, cioè io sono arrivato al punto, cioè veramente, in cui Tinder mi ha rivelato una cosa importante, cioè Tinder mi ha detto: John, tu sei un cesso di merda, grazie Tinder, cioè io voglio ringraziare Tinder, è fantastico, perché io ho detto: ah no, vado su Tinder, fantastico, avrò tanti pezzi meravigliosi, cioè avrò i messaggi, sai, quei messaggi un po' scalmanati, lei che ti scrive, poi non ti scrive più, oh, che roba è fantastica, è incredibile, vado all'appuntamento, oh ma lei è proprio pazza perché sta scappando dal marito, e io scappo il marito che mi insegue dall'armadio, cioè il pazzo di Luna Park, cioè così, oh non vedo l'ora, un cazzo, zero like, zero match, zero, uno, non uno servizio di escort, niente, zero, neanche quello, ormai sto tirando anche su io stesso sto tirando a destra sulla foto di quella che ha messo una sola foto, ed è la foto del cane, allora io ieri sera ero lì, cioè tipo, match, evidentemente non è l'applicazione che fa per me. Tinder, quindi il palco è a posto, quindi ho deciso di passare a mezzi di diciamo mezzi di corteggiamento più tradizionali, cioè Facebook. Questa era la battuta finale per finire questo meraviglioso pezzo. Allora, però no, cioè vado avanti ovviamente, perché non vi liberate così facilmente di me. Così. E no, a dire il vero, sto provando vari diversi tipi di sistemi di messaggistica e social in questi giorni. Per esempio, no, così perché ho bisogno di materiale. Quindi. E per esempio, mi hanno consigliato, non so se lo sapete, Telegram. Per esempio, e non so se conoscete Telegram, che è, sì, è tipo WhatsApp, solo che è blu. Ed è interessante perché mi hanno convinto a usare Telegram, perché mi hanno detto: guarda, Telegram è talmente efficace come sistema di sicurezza che lo utilizza addirittura l'ISIS. E questo argomento mi ha convinto. Cioè il fatto che un'organizzazione terroristica sanguinaria utilizzi Telegram mi ha fatto dire: guarda, è l'applicazione che fa per me. Cioè io penso che l'ISIS non promuova abbastanza prodotti, onestamente. Cioè penso che potrebbe promuovere... Cioè per esempio c'è Miracle Blade... Per quando hai il miscredente anche più ostinato, Oppure Mister Muscolo, e anche tu dirai, che bomba! Oppure camioncini Volkswagen, sei l'ultimo acquisto che fai, perché spendere di meno? E vabbè, parlando comunque di pazzi sanguinari, omicidi che utilizzano social, parliamo di Salvini. Salvini, ultimamente avete visto, lui sta utilizzando tantissimo i social, posta la sua pasta, posta le sue cose, e posta lui che butta poveri rifugiati in mezzo alla strada a morire sotto Natale. È una cosa che va molto bene per Salvini in questo periodo. Ho cominciato a pensare, ma alla fine se Hitler avesse avuto un sistema tipo Instagram, come sarebbe stato il suo profilo? E ho cominciato a pensare, mi sono detto, ma forse sarebbe questo, è foto di mio cane. Bau! Guarda, mio cane che corre, mio cane che gioca con piccola testa tebreo. Questo sono io ed Eva Braun, dopo sesso. Eva Braun con Verma, è stato un blitzkrieg. Questo sono io che, dopo una dura giornata di omicidio razziale, decido di riposarmi con un bel piatto vegetariano. Occhio alla pancia! Mi piace il rumore del silenzio, perché significa che da questo momento in poi posso fare tutto quel cazzo che voglio. Perché tanto chi se ne frega, quindi adesso, cioè, proprio io me la godo. No, ma tanto è una serata di amici, io ho un sacco di amici, è una cosa bellissima. Peraltro mi chiedo perché ho così tanti amici, perché sono palesemente uno stronzo. No, è vero, cioè, tu confermi che sono uno stronzo, sì. Sì, sono una testa di cazzo, è per quello che lo confermi. Come vedete, questa è una battuta bellissima in cui insulto il pubblico. Non so perché mi è venuto in mente di fare questo gioco, perché secondo me è una cosa brillante, ovviamente non lo è. Comunque, passando oltre, no, ma è in realtà la ragione per cui la gente mi adora così tanto, così tanti amici, secondo me è il fatto che mi chiamo John Vincent. Cioè, tutti vogliono avere un amico che si chiama John Vincent. Cioè, è vero, perché è figo, cioè, tu chiami, è come essere in un film americano praticamente. No? Cioè, sono, ehi, JV! Dai, usciamo stasera, JV, dai, andiamo giù in città, JV? Brutta nottata, JV, C'è stato un altro omicidio, JV. Sì? Secondo me c'è uno schema, JV. Deve essere l'assassino delle alluci, JV. L'avevamo già sconfitto, ma è tornato. Secondo me, tutta la gente che esce con me perché è convinta che magari, se sono fortunati, a un certo punto salterà fuori un Vietcong e mi sparerà. Perché così c'è... Oh! Oh, JV! JV! No! Non ti addormentare, JV, tu potrai ancora andare nell'Iowa, JV, a giocare col cane Pippi, JV! Io sono JV, grazie di tutto! Solo che se poi che voglio essere sua amica glielo dico io, lui ci rimane male, smette di parlarmi e cose così. Comunque, succede, però stasera sembrava fossimo quasi amici, non era vero, mi odia. Però, detto questo, allora, siamo arrivati al termine di questa meravigliosa serata. Meravigliosa soprattutto per John e per tutti i suoi amici che non sono io. E quindi non piangete, però succede, cioè, a volte. E quindi, allora, bene, potremmo ringraziare tutti i comici che si sono esibiti questa sera per noi, tranne John Vincent, che è uno stronzo. Per cui grazie. Sappi che questa è la ragione per cui dovremmo evidentemente essere amici, cioè chi altri l'avrebbe gestita in questo modo. Comunque ne parleremo in un'altra sede. Allora, iniziamo a ringraziare. C'è una storia incredibile qua. Guarda che avremmo voluto fare un pezzo in cui lui descrive la cosa dal suo punto di vista e un pezzo in cui io descrivo dal mio. Lo facciamo adesso, vieni John. Facciamo adesso, ok. Thank you. veramente, era una battuta. Vince la Grazia. Questa cosa non era vinci assolutamente... Vinci tu? Non lo so, comincerai... Sì, comincia tu. Però non so se mi fido. Vabbè. Allora, praticamente la storia è questa. Allora, sì. Io ci ho parlato con la Grazia. La Grazia ha detto di no. No. Perché, giustamente, perché ha detto che i nani devono stare fra di loro. No, è vero, lei mi ha detto... Che... No. Allora, John Vincent lo conosco da un anno, ok? Non ci siamo mai rivolti la parola... Dai tempi quelli, fino a un mese fa più o meno, quando a casa di Dado, che ha organizzato una cena, posso essere sì, veramente, ma ok, c'era anche lui, mi dice, ciao, sono John, non pensavo saresti venuta, cazzo neanch'io, e lui dice, ciao, grazie, sono John, io ho problemi di erezione. Esatto. Ok, lui si presenta in questo modo. Così, questa è la prima cosa che mi dice. E la seconda è: ma sai che più ti guardo, più penso che tu sembri la versione giovane di una vecchia zia pazza. E poi non c'è stata! Okay. Io non ho come è potuto succedere, ragazzi? Cioè, come fai tu a resistermi? Con non lo so. Veramente, hai ragione, però forse. Secondo me le tecniche d'approccio potrebbero essere migliorabili, possiamo dire migliorabili, sì. Però vai avanti a raccontare come l'hai vista. No, è stato esattamente così. No. L'ho gestita così e poi mi sono stupito del fatto che non vuole uscire con me. Non solo si è stupito, adesso ho deciso che non ci parleremo mai più, che non saremo mai più amici. Tutto questo perché non gliel'ho voluta dare. È una persona gretta, John Vince, allora, non trovate? Lui me l'ha chiesto, cioè diciamo non proprio... Ma è iniziato così, volevo vedere se a un certo punto, ma poi questo non è che... No, praticamente lui ha tentato di baciarmi, io gli ho detto no, se ti va bene possiamo essere amici per il resto dei nostri giorni, però senza limonare, esatto. Io ho fatto un salto praticamente dall'altra parte, lui ha detto no, questa cosa non può succedere, però possiamo essere amici, ci piacciono i film trash, abbiamo un sacco di interessi come... No, un cazzo, la figa conta, cioè, capito? A me piace che il Marco è veramente appassionato di questo sì, perché sanno che è vero, ok? Ma che sta succedendo? Ma e quindi oggi tipo no. Perché poi oggi no, dai una chance. Ma per come sei allora, oggi gli ho scritto "Guarda che non puoi capire, è uscito finalmente Natalia 5 stelle su Netflix". Sì. Volevo dirvi che questa cosa è successa, sì, io ho colto l'attimo per dire e lui ha preso questo esatto, né parlare. E adesso siamo qui comunque se ci pensi. E ci vedremo anche domani comunque perché domani? Sarà uno spettacolo di Clara Campi. Ah è vero, ah vieni anche tu? È certo che vengo anche. Ma tu ti esibisci domani, visto no, che sono la conduttrice. No perché Vacanza Exhibition mi odia. Ah infatti, odio anche me, infatti sarebbe stato bellissimo domani. Ma un'altra storia, sì. Non so se siete interessati a questo. Vorrei dire concludiamo la serata qua. Ma no. Quella che presenta che odio tutte e due. No, io presento e lo odio un po' per come si è comportato oggi perché è stata una merda. No, esatto. Detto questo, siamo d'accordo, no, giusto? No, assolutamente, ma infatti io però mi sono fatto odiare da due donne contemporaneamente. Sì, ma non è che te la devi menare, cioè devi cercare di fartela dare da qualcuno, non di farti odiare, capisci, John? Wow. Come sei saggia. Lo so. Grazie, bravo. Allora, ragazzi, io... che sono il più anziano di tutti e tristemente temo di esserlo proprio stasera di tutti completamente. Io ho vissuto gli anni 80 e 90, ma vi dico che Albano e Romina non sono mai arrivati a sto livello. Cioè io mi sono immaginato del tipo un amico che mi porta dei funghetti e dice assaggia questi funghetti e poi guarda Albano e Romina. Ecco, quello che ho visto stasera sono Albano e Romina dopo i funghetti allucinogeni sostanzialmente. Scusate se vi ho rubato la cosa, ma rischiava di finire a cazzotti. Quindi... Ma non stavamo facendo pace secondo te? Ma sì. Stavate facendo pace? Sì, secondo me. Ma sai, io sono per il lieto fine, per cui la mia voglia sarebbe che voi stanotte scopaste odiandovi. Cioè, secondo me sarebbe molto più bello. E questo, e dico questo perché conosco John da più tempo di quanto conosco Grazia, quindi giustamente faccio gli interessi degli amici. Niente, devi chiudere tu però, Grazia. No, hai fatto bene a chiudere questo momento intervallo, comunque bellissimo, mancava solo la sigla di Piccoli Problemi di Cuore. Allora, volevo appunto ringraziare tutti i comici che sono stati sul palco qui con noi questa sera per questa scoppiettante serata di comici in stato di grazia, partendo da... Ma cosa è fatta questa cosa? No, ok. Partendo da Nick Porta! Per riconoscerlo, quello con i baffetti da stupratore. Poi, Alessandro Pesce, quello che viene da Torino per convertirci. perché non si ricorda il mio nome al termine dell'esibizione. Clara Campi, che domani sera vi aspetta con il suo nuovo spettacolo È difficile essere facile. Location misteriosa, seguitela sulla sua pagina Facebook per scoprire dove. Raffaele Cosentino, ah, che bello. Dado Tedeschi, la trinità della stand-up. Salutiamo anche il tizio di Mona Park. Francesca Persiani e tutti gli ebrei, salutiamoli, così anche loro che ci guardano sempre da casa. Simone Big Prons, quello dei vecchi che guidano. Giorgio Franchi, quello che ha portato anche il nome del tizio del Luna Park questa sera. Grazia Sambruna, che ha smesso di scopare, però voleva dirvelo. Ok, John Vincent, perché è sempre bello avere un amico che si chiama John. Ok, grazie a tutti voi, grazie a Radio Tedeschi. Vi ricordo le buste, potete lasciarle appunto lì nella zona buste, magari con dentro qualche spicciolino, grazie. E John cercherà di sparire adesso, va bene, sto scappando. Buonanotte, grazie mille a tutti voi. Forse ci rivediamo il 6 gennaio con quanti ci vediamo. Questo sarà l'ultimo appuntamento di quest'anno. Tanti baci, grazie. No, c'è la musica, quindi canticchiate. E fatemi fumare una sigaretta ora, cioè. Vai.